24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'annuncio delle elezioni anticipate in Spagna con il premier Zapatero che le ha fissate per il 20 novembre. Ancora forti tensioni nell'Eurozona con una chiusura settimanale in rosso per le principali piazze continentali, mentre Cipro registra un taglio del rating da parte di Standard & Poor's. Nuovi inquietanti dati sull'occupazione dei giovani italiani nel mezzogiorno rispetto all'Europa e infine torniamo in Norvegia a una settimana da le stragi di Oslo e Utøya. Questa è la decisione che oggi ho traslato. Quella che state ascoltando in apertura del nostro giornale radio è la voce del premier spagnolo José Luis Zapatero, che ha annunciato venerdì elezioni anticipate per il prossimo 20 novembre. Il governo iberico dovrebbe sciogliere il Parlamento il 26 settembre. La decisione di anticipare il voto è dovuta non solo alle pressioni dei mercati finanziari, ma anche alla lenta risalita nei sondaggi del Partito Socialista, che ha recuperato parte dello svantaggio nei confronti del Partito Popolare, ancora nettamente favorito. Zapatero ha precisato che non si ricandiderà neppure come deputato del PSOE. Ora la crisi economica. Standard & Poor's ha tagliato il rating di Cipro a BBB+, da A-. Un altro colpo per l'Eurozona, le cui borse hanno chiuso venerdì in rosso. Il punto su Piazza Affari nel servizio. Seduta nel segno dei conti semestrali per Piazza Affari, in un listino che ha fatto segnare un calo dello 0,65% sul FTSE All Share e dello 0,67% sul FTSE MIB, la maggior parte dei titoli si è mossa in base alla reazione degli investitori dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio. Finmeccanica è stata così la peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione per il secondo giorno consecutivo, perdendo il 7% dopo il meno 17% di giovedì. Il titolo ha pagato il taglio delle stime per l'esercizio 2011. L'effetto semestrale è stato invece positivo per l'Automatica, più 9%, che ha rivisto al rialzo le proprie previsioni sull'intero anno. Al di fuori delle società che hanno comunicato i conti è salita del 2,2% Telecom Italia. Le quotazioni del gruppo hanno beneficiato della giornata positiva per il settore europeo delle TLC, che ha festeggiato l'annuncio di un dividendo straordinario in arrivo per Vodafone. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24. Tra lo sole 24 ore. O si fa l'Europa o si muore, lo ha affermato il ministro dell'economia Giulio Tremonti intervenendo a 1 Mattina. Si può e si deve andare avanti, bisogna fare di più in fretta ed essere più convincenti. Va fatto molto di più. Sentiamo Tremonti. Più che la speculazione, che naturalmente c'è, il grande problema è quello di fiducia. Tu devi sapere che cosa compri, in cosa investi. Che cosa è l'euro in questo momento? È una moneta comune con 17 stati diversi, con una banca centrale europea che non può fare come le grandi banche centrali del mondo, e cioè a dire operare anche sul sistema monetario. Ecco, io sono convinto che si può e si deve andare avanti, che quello che è stato fatto finora è abbastanza buono, deve essere fatto di più, più in fretta, dobbiamo essere più convincenti. So che va fatto molto di più. 2 giovani su 3 senza lavoro e oltre il 30% dei laureati che non lavora né studia sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Economia del Mezzogiorno. Luca Bianchi, vice direttore di Svimez, spiega perché il Sud Italia sconti ritardi importanti rispetto alle altre aree d'Europa. Noi abbiamo avuto l'esperienza, diciamo, nel complesso degli anni, diciamo, tra il 97 e il 2007, in quei 10 anni in cui le aree più deboli della Spagna sono cresciute fortissimo e più della media della Spagna, le aree della Germania, ex Germania dell'Est, sono cresciute più dell'altra area della Germania. L'Italia è uno dei pochi casi in cui c'era un processo di divergenza invece che di convergenza. Quindi c'è un problema che è a lunga data e riguarda anche i contenuti e le caratteristiche delle politiche di sviluppo. Evidentemente abbiamo fatto male le politiche per lo sviluppo del mezzogiorno, l'abbiamo fatte male a Roma e l'abbiamo fatte male sui territori. Nella crisi ovviamente siamo entrati già abbastanza indeboliti e il mezzogiorno ha, diciamo, ha subito dal punto di vista del PIL e del valore aggiunto una crisi sostanzialmente in linea con le altre aree deboli, leggermente peggiore. E quello che si conferma anche questa volta è l'impatto sull'occupazione. E ultimo dato rilevantissimo sui consumi. Abbiamo oggettivamente una specialità italiana è diventata, cioè questa delle aree deboli che non crescono è diventata una specialità dell'Italia, e ci porrà dei grossi problemi anche in termini di discussione a Bruxelles per quello che sarà il quadro del post 2013. Non c'è al momento alcuna evidenza o elemento che faccia sospettare un legame del caso della bambina ricoverata a Padova con il ceppo 104 del batterio Escherichia coli diffusosi in Germania. Lo ha dichiarato il professor Alfredo Caprioli, direttore del laboratorio di riferimento europeo per l'Escherichia coli. Sentiamolo al microfono di Cristina Carpinelli. Non c'è nessun collegamento tra la famiglia del piccolo paziente e la Germania. Teniamo anche conto che in Germania stessa i casi stanno praticamente per esaurirsi. E poi il fatto che è un bambino, quindi che ci sia la sindrome emolitico-uremica in un bambino, non è una cosa strana. Può spiegarci qual è la fonte di questa malattia? L'infezione può essere, come un po' tutte le infezioni orofecali o trasmesse da alimenti, appunto può essere contratta con ingerendo degli alimenti contaminati col batterio, oppure anche per diretto contatto con gli animali. In particolare questi batteri sono ospiti dei ruminanti. C'è una casistica, diciamo, anno dopo anno? Sì, purtroppo noi abbiamo ogni anno dai 30 ai 40 bambini che presentano questa patologia in Italia. Sono tutti casi di malattia seria, perché spesso richiedono la dialisi. Ecco, ci sono dei sintomi che devono far immediatamente pensare a un intervento? Sì, la diarrea con sangue. E ci sono invece delle precauzioni che si possono prendere? L'igiene, evitare di consumare alimenti, latte non pastorizzato, carne cruda. E ora andiamo in Norvegia, un paese che venerdì ha commemorato la prima settimana dalle stragi di Oslo e Utøya. Con una rosa in mano, simbolo dei laburisti, centinaia di norvegesi hanno preso parte ieri alla commemorazione delle 76 vittime degli attentati di Oslo e Utøya, una commemorazione voluta dagli esponenti del partito, che hanno anche osservato un minuto di silenzio. Il premier Stoltenberg ha detto che le stragi di una settimana fa sono un attacco alla democrazia, e ieri sono stati celebrati anche i primi funerali di alcune delle vittime. Nel frattempo emergono nuovi particolari sugli attacchi compiuti da Anders Behring Breivik. Secondo una nuova ricostruzione dei fatti, l'uomo aveva parcheggiato il furgone carico di esplosivi davanti all'ufficio del premier norvegese. Gli addetti alla sicurezza lo videro parcheggiare sotto la tettoia dell'ingresso dell'edificio, ma non si preoccuparono perché indossava l'uniforme di polizia. Due minuti dopo ci fu l'esplosione. Intanto dall'avvocato si apprende che Breivik progettava altri attacchi nello stesso giorno in cui ha compiuto la strage. Il legale ha spiegato che quel venerdì aveva più progetti di diversa portata. Ora Breivik, che è stato nuovamente interrogato, sarà sottoposto a perizia psichiatrica per verificare se era capace di intendere e di volere. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato le dimissioni del ministro della difesa Bogdan Klitsch in seguito alle conclusioni della commissione d'inchiesta sull'aereo precipitato nell'aprile 2010 a Smolensk in Russia, con a bordo l'allora presidente Lech Kaczynski. Sentiamo. La colpa non è stata del pilota o di chi volle a tutti i costi atterrare, ma dell'illuminazione dell'aeroporto russo, che era difettosa e incompleta. Questa è la conclusione del comitato polacco d'inchiesta sul disastro aereo in cui morirono nell'aprile del 2010 a Smolensk il presidente Lech Kaczynski e l'intera elite politica, militare e religiosa di Varsavia. La commissione polacca avrebbe inoltre scoperto che il capo della zona di atterraggio aveva dato istruzioni errate all'equipaggio del velivolo. Il rapporto stilato invece dai russi e presentato nel mese di gennaio aveva attribuito tutte le responsabilità del disastro ai polacchi. Immediatamente dopo l'incidente il premier Vladimir Putin volle andare sul luogo a Smolensk, dove incontrò il collega polacco Donald Tusk. Fra i due ci fu uno storico abbraccio che ora un nuovo scambio di accuse fra i due paesi sembra cancellare. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Almeno 16 minatori sono morti in un'esplosione nella notte tra giovedì e venerdì in una miniera nella regione di Lugansk in Ucraina. 10 minatori risultano invece dispersi. L'esplosione probabilmente è stata dovuta a una fuga di gas metano, mentre una trentina di persone stavano lavorando a circa 900 metri di profondità in una delle miniere più pericolose del paese. Ora lo sport con i mondiali di nuoto. L'americano Ryan Lochte è l'asso pigliatutto a Shanghai. Due gli ori ottenuti nei 200 d'orso e nella 4x200. Per lui è il quarto titolo in questa edizione dei mondiali. C'è stato anche il secondo caso di oro ex aequo nella gara dei 100 stile libero donne. La bielorussa Aleksandra Erasimenia e la danese Jeanette Ottesen hanno chiuso entrambe la gara con il medesimo tempo. Formula 1, Lewis Hamilton e la McLaren, trionfatori domenica scorsa in Germania, ancora davanti a tutti nel primo giorno di prove del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota britannico ha preceduto il leader della classifica mondiale, il tedesco Sebastian Vettel, e lo spagnolo della Ferrari, Fernando Alonso. L'altro ferrarista, Felipe Massa, ha ottenuto il sesto tempo, preceduto da Mark Webber e Jenson Button. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.